Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Per una volta mi sento in dovere di anticipare quello che tra poco ascolterete. Preparatevi a conoscere uno dei risvolti più mirabolanti di quello che viene chiamato il sistema tradizionale dell'ordine naturale della costituzione di una famiglia. Quello che può essere famiglia al di là dei preconcetti, al di là degli schemi, al di là di quelle che vengono considerate le incrollabili leggi della natura. Da chi ho questa fulminea rivelazione? Da un signore tranquillo, un signore attempato, un signore molto distinto. E la chiacchiera da treno e da viaggiatori consueta inizia con lui commentando un film che avevo visto la sera prima in uno di quei tanti canali in streaming digitali. Era un film che aveva per protagonista Alberto Sordi, l'italiano per eccellenza con tutti i suoi limiti e i suoi splendori, e parlava di un detenuto in attesa di giudizio. Beh, questo mio interlocutore mi cominciò ad accennare delle sue storie di carcere, ma della sua vita non saranno sicuramente il punto per me più interessante. Allora, potremmo cominciare dicendo che c'è una parte della sua vita che assomiglia molto a un film. Eh sì, perché sono nato molto, molto povero, e quando si nasce poveri, quando i poveri erano poveri, non come adesso, che ieri ho fatto l'elemosina a un signore che mentre gli davo un euro ha tirato fuori il cellulare e ha risposto. E quando si nasce poveri si accetta tutto. C'è rimasto male, c'è rimasto, dice, un euro sì, potevo dare a qualcuno. Perché aveva un cagnolino, e anche se sono contrario a chi chiede l'elemosina con i finti benefattori degli animali, però gli stavo dando una moneta in un bicchierino e lui ha tirato fuori il telefono e ha risposto. Mi sono sentito un po' sciocco, mettiamola così, va? Beh, oggi funziona, poi funziona così. Ecco, ma invece la sua povertà come se la ricorda? Io la mia povertà me la ricordo vagamente, perché ho avuto un trauma a 13 anni. Io vivevo con Babbo. Cominciamo a definire il periodo, che anni erano? 1953. Ecco, a me pieno boom economico, cioè stava cominciando la rinascita dell'Italia. Sì, io vivevo con quelli che ritenevo mamma e papà e Mimma, mia sorella, molto molto più grande di me. Un giorno a 13 anni, mentre la mia mamma era in ospedale che stava morendo, la mia sorella, che io ritenevo tale, mi ha detto: guarda Alberto, la tua mamma sono io. E mi ha raccontato il perché era lei, che aveva avuto un rapporto con una persona che non ci aveva riconosciuti. Cioè lei pensava che fosse sua sorella invece sua madre? Certo, io ho vissuto per 13 anni con chiamandola Mimma, mia sorella. E la salvezza, mi ha detto poi uno psicologo dopo molti anni, che è stato che come se mi fosse calato un sipario, perché avrei potuto diventare matto o dare i numeri, e invece mi sono salvato perché non mi ricordo niente, assolutamente niente della mia infanzia. E pensi, c'è un caso famosissimo di molti anni fa di una bambina, mi sembra latinoamericana, che ha partorito piccolissima, il caso di una bambina più piccola. Ho visto l'altro giorno, sì, a 5 anni. A 5 anni, e anche in quel caso il figlio per tutta la vita gran parte della sua vita ha pensato che fosse la sorellina maggiore, quando in realtà era la madre, ma lì era una cosa abnorme, è nato a 5 anni, sua sorella era già, diciamo, in un'età più adulta. Ho vissuto un po', la cosa più brutta in quegli anni fino ai 20 è stato che sui documenti avevamo NN allora. Da pochi anni è stato cancellato e NN era come un timbro figlio di buona donna, perché non, padre non noto, e mi ricordo questa cosa molto brutta di fino a una ventina, fino ai 20 anni. Poi, ma il padre l'ha mai saputo chi è il padre, chi è il suo padre? No. Non l'ha mai detto. Mia madre mi ha detto che era l'autista del pullman, della gita che facevano, lei lavorava all'ACFA, mia madre, e molto probabilmente un po' mi è venuta in mente la storia di Bossetti, la madre che aveva avuto un rapporto con l'autista, no? Famoso. Sì, che hanno fatto il DNA a tutta la cittadina per capire chi era. Mi sono accorto che questa signora ha avuto la storia con l'autista dell'autobus. Madre mi ha avuto a 39 anni e mi ha detto solo che quando mi ha avuto, io sono nato a Firenze, mi ha portato a Milano per farmi vedere, dico mio padre, ma mi dà persino fastidio dirlo, il quale ha detto non mi interessa, aveva già famiglia, ed è finita lì, non se ne è mai più parlato. Diciamo, è stata la storia di un amore veloce, fugace, che ha lasciato lo strascico. Credo il classico bell'autista con le impiegate. Potrebbe essere una storia d'amore che non lasciava segni come tante, e purtroppo a volte lasciano segni non desiderati. Ma mia madre mi ha detto anche, ho cercato di non averti con la malva, con i bagni, ma non me l'ha mai parlato. Beh, terribile sentirselo dire però questo. Sì. Magari poteva anche evitarla questa cosa. Sapere che ha tentato di abortirla non è proprio il massimo sentirsi dire da una madre. Senza di giudicare. Adesso però l'ha detto con sincerità, evidentemente... Era una situazione sociale, familiare. No, ma l'ha detto bene, non in maniera che non mi sono sentito offeso. Che non poteva altrimenti, era una scelta obbligata, era un uomo sposato. Erano anche altri tempi. Negli anni 50, fra l'altro era un reato addirittura. Poi ragazza madre allora voleva dire prostituta. Assolutamente, ma poi con un uomo sposato, era un reato veramente andare con un uomo sposato. Era l'adulterio, era stato un reato proprio. È andata, la vita è andata, poi ho cominciato a fare diversi lavori. Ma lei non si chiedeva mai come mai c'era una sorella così grande, tutta questa differenza d'età? No, mai assolutamente, mai. Niente, era giovanile. Molto, molto ingenui eravamo anche, non come adesso che sai tutto. E si ricorda quando gliel'ha raccontato questo episodio? Sì, mi ricordo che quella sera pioveva, io eravamo a Milano in via Pamfilo Castaldi e ci avevo la mia mamma, quella che ritenevo tale, era in ospedale. Che in realtà era sua nonna, era? In certo, invece era mia nonna, sì. E mia madre mi prese in bagno mentre mi stavo lavando, ci si lavava a pezzi allora nella tinozza, e mi disse: Alberto, guarda, ti devo dire una cosa, però non voglio neanche farla tanto drammatica, perché io mi ricordo pochissimissimo. What on earth am I meant to do? In this crowded place there is only you. Was going to leave, but now I have to stay. You have taken my breath away. Ooh, is the world still spinning around? Spinning around. Ooh, I don't feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too, it's no surprise. I've been watching you lately, I want to make it with you. Destiny has a funny way, when it comes and take all your cares away. I can think of a single thing, rather than what a beautiful state I'm in. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. naturalmente qui su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ma in fondo, scusi, è una donna adulta che le era stato vicino, che le trasmetteva affetto, amore, con cui lei stava bene. Io penso che cambi poco nella mente, se era sorella o madre. Ci sono delle sorelle che fanno le madri ai propri fratelli, o viceversa, delle madri che sono talmente intimamente vicine ai figli che sembrano delle sorelle senza imporre un ruolo. Alla fine... Perché poi, se vogliamo aggiungere un giallo alla mia vita, io vivevo con mamma e papà e la mia sorella. Quella che era mia sorella, cioè coi nonni e con sua madre, ecco, praticamente, sì, alla luce della realtà. Il bello è questa famiglia, si direbbe un po' incasinata, che mia madre non era figlia di quello che io pensavo mio padre, perché mia nonna aveva avuto mia madre da un altro uomo. E suo padre lo sapeva, e il nonno lo sapeva? E questo non lo so, io... No, e poi c'ho un dubbio atroce, perché io assomiglio, adesso non vorrei però trasformare in... No, è interessante. O nella Leoncini, io assomiglio tantissimo alla persona che mi ha dato il cognome, che era il padre di mia madre, ma che non lo era però. Io ho un bronzo in casa dedicato al mio gentiluomo. Quindi pensi l'intreccio complicato. Allora, sua sorella, che in realtà era sua madre, aveva un padre che non era suo padre, che potrebbe essere anche il padre di suo figlio. Io ho il sospetto che abbia avuto il mio, chiamiamolo papà, un rapporto con mia madre, perché assomiglio tantissimo. D'altronde non era la figlia, era la figliastra. Non era la figlia, no. Anche se lui la... Quindi lui, avendo saputo che non era figlia sua, quindi la considerava una donna come le altre. Lo sapeva, certo. Come le altre. Mia nonna era una bellissima, allora faceva... La manichène, che anche lì fare la manichène negli anni 40-50 era sospetto, era molto sospetto. Però una famiglia variegata, devo dire, visto adesso non so quali traumi, quali ferite si porta dentro, se ci pensa bene è una vita da romanzo in cui, diciamo, la trasgressione alla regola impera. Lei ha avuto una nonna tanto simpatica d'aver fatto la figlia con un altro uomo, aver comunque vissuto con un uomo che però alla fine, come rivalsa del fatto questa figlia non è la sua figlia, ci ha allacciato comunque un rapporto amoroso, ci ha fatto un figlio che comunque si è tenuto in casa come se fosse realmente suo figlio, che in effetti era suo figlio, ma era figlio di quella che pensavano che fosse la figlia. Una cosa complicatissima, ma se ci pensa le cose, infatti, nessuno ha fatto poi dei torti contro leggi di natura. Alla fine ognuno è stato con chi gli piaceva stare, di cui non era assolutamente legato da legami di sangue, perché non ci sono state brutte. No, alla fine no, suo nonno stava con una donna, questa ha fatto un figlio con un'altra, quando è cresciuta si sono piaciuti, si sono voluti bene, è nato un figlio. Che facciamo di questo figlio? Facciamo finta che è il fratello, fine. E nessuno dice, probabilmente sua nonna sapeva tutto, sapeva che in realtà la figlia era figlia del proprio uomo, che in realtà era solo l'amante con cui che lui aveva tradito, e quindi doveva stare zitta, e ci stava. Ma non ho mai pensato di scrivere un romanzo della sua vita, è una bella vita messa così. Io, ma poi perché non è, ci sono mille episodi, perché ho fatto sempre lavori pericolosissimi, uno dei quali mi ha portato poi anche due volte a San Vittore, anche se sono stato assolto. Allora, prima di arrivare alla vicenda carceraria, che anche quella mi sembra interessante, chi è ancora vivo della sua famiglia, diciamo? Nessuno. Ah, è morta anche sua madre, sorella è morta? Sì, è morta nel 90, sì. E nemmeno in punto di morte suo nonno, in realtà forse suo padre, ha avuto modo di dire, lasciare dei segnali, dire tu sei mio figlio? No, assolutamente, no. E non ha mai avuto a parte la somiglianza fisica? La somiglianza, perché me la dicevano, me l'hanno detta molte persone, perché io sono così grato a questa persona che mi ha... Fin dei conti, Sicuramente è una persona buona. Ho perché... fatto un bronzo in casa, che ho scritto al mio gentiluomo, e tutti mi dicono, quelli che frequentano, ma ti assomiglia, guarda, assomigli. E allora ho questo pensiero. Tempo fa volevo anche andare a fare un DNA prelevando le ossa, però ho detto, ma chi me lo fa fare? Ma io lo farei però, le pensi, però scusi, è la chiave di lettura di tutta la sua vita, perché no? È la chiave di lettura di tutta la sua vita questa cosa qua. Sì, ma poi magari ci rimarrei male, Nicoletti, ho 80 anni, stando alle statistiche... Vabbè, che cos'è che la farebbe rimanere male? Che non fosse suo padre? No. Beh, però scusi, metterebbe a posto tutto della sua vita. È una storia tranquilla, limpida, delle persone che si sono volute bene, che non hanno assolutamente subito condizionamenti da regole, strutture, leggi. Lui stava con una donna, gli piaceva, ci stava bene, l'ha tradito, ha fatto un figlio con altre, chi se ne importa, stiamo insieme. Ho parlato con un avvocato tempo fa per riesumare le ossa, e che ha detto? Poi non me ne ha più parlato, bisognava andare logicamente in tribunale, chiedere, e poi la vita ultimamente negli ultimi 10 anni è stata molto molto difficile, e allora ho lasciato perdere. Però io sarebbe una soddisfazione che mi vorrei togliere per capirlo, perché se fosse stato veramente così, pensi che storia veramente fantastica. Tutto sommato, queste 3 persone con cui lei ha condiviso la sua vita, in realtà avevano un forte legame d'amore che le legava. Perché hanno messo su, per salvaguardare la sua serenità alla fine, perché tutti sapevano tutto, secondo me, certo, hanno tenuto in piedi questa sorta di romanzo sceneggiato per non ferirla. Alla fine si sono tutti preoccupati del suo benessere, perché sua madre e sorella 40, le ha detto una parte la verità, non le ha detto sicuramente la parte del padre. Suo nonno, no. In realtà forse padre, è stato zitto e l'ha amata come un figlio, a tutti gli effetti era suo figlio. Ma cosa molto cambia? Di più. Cosa cambia? E la figura in tutto questo, la sua nonna, che era sua nonna, l'unica certezza che quella fosse sua nonna, non aveva assolutamente dubbio, perché era madre di sua madre, sì. Sua nonna alla fine ha fatto probabilmente questa uscita dalla regola, che ha avuto, si è innamorata di un altro, e allora sa... Mia nonna ha avuto mia mamma da quello che allora era il capostazione di Firenze, che allora essere capostazioni era un'autorità. E quindi sono tutte persone che hanno fatto scelte non di comodo, perché sono scelte tutt'altro che comode, fatto scelte d'amore. Ma io non ho sofferto niente. Questo dimostra che in realtà la famiglia è un'ipotesi. Famiglia laddove ci sono delle persone che si preoccupano l'uno dell'altro e si vogliono bene. Alla fine, cosa eravate voi? È difficile definirlo. Era un nonno padre con una moglie che aveva una figlia, ma il figlio in realtà era di quello che pensava fosse il nonno, in realtà fosse il padre. E la madre tutto sommato chiudeva un occhio sul fatto che l'uomo con cui viveva avesse rapporti con sua figlia, perché in fondo anche la figlia c'era qualcosa di sospetto. Lei è molto arguto e intelligente, ma quelle poche volte che io ne parlo con qualcuno devo fare lo specchietto come fanno i carabinieri. Ma io ho capito tutto, invece ho capito tutto subito e devo fare tutti i riferimenti, perché non è facile. Ma diciamo, lei però lei dopo che ha avuto la notizia sulla realtà di sua madre, che non era sua sorella, dal resto della famiglia ha avuto attenzioni diverse? Cioè tutti sapevano che lei aveva saputo, era caduto, pure ha fatto finta di continuare a considerare la sorella? Siamo rimasti mia madre e chiamiamolo mio nonno. Poi io l'ho preso a lavorare perché aveva perso il posto, faceva il cameriere, ha perso il posto, io ho iniziato a lavorare alla Mondadori e ho preso lui, vendevamo libri, e ho preso lui negli ultimi anni della sua vecchiaia a lavorare, ma non se n'è mai parlato di niente. È una cosa già digerita. Quindi lei si è occupato di suo padre come raramente un figlio fa, l'ho aiutato fino alla fine, che era suo nonno, ma in realtà era suo padre, lei era convinto che lei già immaginava fosse certo, suo padre. Certo. E il rapporto con la nonna com'era? Con la nonna che tutto sommato... Non me lo ricordo, perché è morta nel 53 appunto, quando io avevo 13 anni, mi ricordo solo che l'aspettavo alla fermata del tram la sera a San Siro a Milano, perché lei vendeva tovaglie, e allora a seconda di quello che aveva venduto avremmo mangiato. Beh, una vivevamo nelle case popolari a San Siro a Milano. Ho questo ricordo... Io che andavo in piazza Falterona la aspettavo verso le 8, 8 e mezzo, e a seconda di quello che avevano venduto di tovaglie o tessuti si metteva in piedi da cena. Mi ricordo solo questo di lei. Take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one who needs you most, take care of the one you love. Mwana utibiwaze aukana moyo kairi hana indru Sana halawa mau duka caca leon deu leo mau duka caca. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. And I'll yo a hanza o wasi hendro wuti wa hukumu hata diwaza zetabu waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Lei quando ha cominciato a lavorare invece, a essere autonomo? Io ho cominciato a 15 anni lavorando, facendo il fattorino alla Mondadori, portando le enciclopedie dei ragazzi. Quelli erano gli anni che cominciavano a girare le enciclopedie, era un bel affare, un bel giro era. Con la bicicletta Doniselli, dove caricavamo le enciclopedie e le consegnavamo, e poi mentre consegnavamo cercavamo anche di vendere. E la mamma sorella cosa faceva nel frattempo? Faceva la sarta. Quindi tutto sommato lavoravano tutti, era una famiglia impegnata comunque, sì, modesta, sì, sì, sì. Di risorse economiche, ma si davano da fare tutti. Quindi è stato assolutamente. Erano tutti degli esempi per lei, non c'è nulla da dire assolutamente. Io mi ricordo di mio padre, che lo chiamo così volentieri, che tornava dalle serate quando lo chiamavano per fare il cameriere e mi portava a casa una banana, o una banana e un arancio, e allora era un bel regalo, perché non si poteva comprarlo. Ecco, ho questi ricordi così flash, ma non vorrei fare il patetico. No, patetico, però desta una grande curiosità, perché è un modello di famiglia talmente apparentemente scombussolato, ma allo stesso tempo solido, perché è una famiglia che è stata unitissima. Andavamo a comprare, facevamo la fila alla Scala, mi ricordo, per comprare i biglietti per conto dei bagarini, perché ci davano 100 lire, mi sembra. Quindi c'avate tutta una serie di piccoli lavoretti che vi aiutava a far quadrare il bilancio. Sì, sì, sì. Quando è uscito dalla miseria, ha cominciato a pensare, oggi sono... Sono uscito dalla miseria a 20 anni, quando mi hanno proposto un lavoro molto particolare, che è difficile spiegare, e lì allora ho cominciato. Infatti io vivevo nelle case popolari, ma avevo una Plymouth americana lunga 5 metri, perché avevo cominciato a vedere i primi soldi. Beh, era un lavoro, diciamo, non voglio entrare nei limiti dell'lecito. No. Era un lavoro, in due parole, i sindacati del Ministero delle Finanze avevano dei loro periodici, il sindacato, sì, dei dipendenti delle imposte dirette, il sindacato dei sì, sì, diciamo i bollettini del loro. Allora, noi telefonavamo alle aziende chiedendogli di abbonarsi a questi giornali. Alla parola imposte dirette o ufficio IVA si abbonavano tutti. Tanta era la paura che poi questo fosse una sorta... Sì, allora poi l'agenzia delle entrate non era come adesso, no? Sì, però comunque loro si abbonavano per tenersi buoni e tranquilli. E sono andato e ho fatto veramente la bellissima vita dai 20 ai 40 anni, ma proprio alla grande, alla De Niro, quando la sera ci trovavamo nei film con i bravi ragazzi, mi viene in mente. Beh, oddio, quelli erano mafiosi, però non erano proprio bravi ragazzi. No, noi non facevamo omicidi, però era un lavoro, guadagnavamo molto facilmente, perché le aziende pagavano, ci dividevamo i soldi la sera, questo è tuo, questo è mio, sciambola. Poi nel 1980 un mio produttore, si chiamano, ha calcato un po' la mano con un'azienda, invece di dirgli che era del sindacato del Ministero delle Finanze, ha detto che lui era del Ministero, e lì ci hanno arrestati tutti. Diciamo si è lasciato prendere un po' la mano, perché non era proprio un ricatto, sì, era sul velata, sulla velata detto non detto, che uno pensava che era meglio abbonarsi, sì, e lui invece ha calcato. Sono stato assolto perché avevo predisposto. E ha tirato dentro anche lei, diciamo, in questa situazione. No, ero io il capo, ho io messo in piedi tutto, ho preso a lavorare tutti i miei compagni disperati, disoccupati, io ho messo in piedi l'organizzazione, io non sono stato vittima di nessuno. Quindi, sapevo benissimo quello che accadeva. E quindi in che maniera le è stato fatto pagare, diciamo, questa scivolata? Lei mi ha accennato prima a San Vittore, quindi immagino sono che... Sono stato arrestato, ho fatto 15 giorni terribili. Lei ha visto il film Papillon? Sì, certo. Quando la sera li legavano nella caviglia a dormire. Vabbè, era l'isola del diavolo, però. Io ho fatto 15 giorni nella camera di sicurezza di Milano così, poi ho legato come Papillon. Non legati alla caviglia, però se lei leva la sbarra della caviglia, il resto è tutto uguale. C'è una cella schifosa. Poi sono andato a San Vittore e lì ho fatto 2 mesi. Dopo mi hanno scarcerato e poi c'è stata l'amnistia, perché il reato era truffa. E sono stato amnistiato. A San Vittore ho vestito malissimo, perché è stato anche il periodo del 28 aprile dell'80 della grande fuga, certo, da San Vittore, senza fare nomi. Però sì, sì. Il 28 aprile c'è stata la fuga da San Vittore e lì sono stato coinvolto anche in quello. E quando non fai parte di un certo giro è abbastanza traumatico il carcere. E quindi ha passato, diciamo, momenti brutti, anche se il tempo non era lunghissimo. Quando sono uscito dal carcere, alla paura di tornarci, sono scappato in Costa Rica. Beh, lì anche avrà fatto una bella vita, immagino. Beh, ho fatto 20 giorni, poi siccome era pieno di tanti tanti, ho preso il Concorde e sono tornato. Ma se l'andava proprio a cercare, se andava a cercare nei posti dove c'era. Ecco. E beh, tutti i latitanti andavano in Costa Rica perché non c'era l'estradizione. Beh, lei non era latitante, sono... comunque, lei ancora... No, ma io ero così stato terrorizzato da San Vittore che avevo paura di tutto, anche se il reato era lieve, si è stato amnistiato, però quello di San Vittore è proprio Alberto Sordi quando entra con la ciotola, con la coperta, con la cella, con le grida, quello è molto... Ma per chi non è del giro... E non è abituato, è chiaro, è un'esperienza traumatica. È un mondo proprio che uno non si può immaginare. Poi le è capitato di tornarci durante la vita in una situazione simile? Sì, nell'87. E quanto tempo è stato dentro? Nell'87 sempre per lo stesso reato, ma però sono stato assolto addirittura in istruttoria. Ho fatto 3 mesi di San Vittore, 2 di arresti domiciliari e poi sono stato assolto, allora c'era il giudice istruttore, adesso non c'è più, sono stato assolto in istruttoria, però ma mi corretti, guarda che io non mi sento vittima, eh? No, ma è tutto sommato, se lei ha fatto degli sbagli l'ha sempre pagati alla fine, anzi. Io ho fatto dai 20 ai 70 una vita che non mi sarei mai sognato di fare. E tuttora, diciamo, la sta facendo la vita che vorrebbe fare? Adesso un po' meno, perché mi è successo un altro guaio del quale non è il caso di parlare. Sì, no, non voglio entrare nei particolari. Quel guaio lì mi ha un po' messo ai margini con le banche, con il mondo imprenditoriale, perché è stata una cosa molto grossa. Però diciamo che un pochino è anche abituato ormai di muoversi in questa zona... a metà fra la legalità e il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona. Assolutamente sì, ho avuto decine di processi per lo stesso reato dove sono sempre stato assolto, per cui non faccio storie come qualcuno ha fatto ieri perché i carabinieri lo hanno fermato. Quando fai certe cose devi aspettarti certe reazioni e certi incidenti. Vediamo se lo dico giustamente. Lei ha fatto una bella vita, una vita agiata, ha guadagnato dei bei soldi, però è consapevole che per guadagnare tanti bei soldi bisogna sapersi un po' destreggiare in delle linee di confine che a volte possono anche sfociare in comportamenti che possono procurarti dei piccoli o grandi problemi. Sì. Beh, a me non lo dice con onestà, è chiaro, sennò tutti fa tutte vergini, tutti puliti. Per fare tanti soldi subito e vivere in maniera molto agiata, oltre che lavorare, bisogna anche sapersi un po' muovere. Lei ha saputo muovere, delle volte ha sbagliato e l'ha pagata, l'ha sempre pagata. Anche nell'ultima cosa della quale non parliamo, io sapevo cosa facevo. E gli inquirenti hanno fatto il loro lavoro. Si può dire che questo è il suo rischio d'impresa, sapere che se fa un passo un po' troppo azzardato rischia che qualcuno poi gli mette le manette, ecco, questo è il fatto. Assolutamente così, senza fare drammi, senza fare vittime, ma assolutamente. Si sa, quando si è maggiorenni e vaccinati, sai che se passi col rosso possono darti la multa. Ma lei si offende se uno dice, ma tu nella vita hai fatto il truffatore? È una cosa offensiva, esagerata secondo lei? No, io non ho truffato nessuno perché è brutto. Il reato era quello, l'accusa è sempre stata quella, ma perché chi telefonava per fare gli abbonamenti qualche volta si spacciava per funzionario dello Stato che non lo era. Però noi incassavamo 15, 20, 30 mila lire, poi sono diventati euro, dalle aziende. La parola truffa mi fa venire in mente la vecchietta scippata, truffata, che sarebbe molto brutto. Qui mi assolvo da solo, magari sbaglio. Però ecco, il lavoro era di chiedere abbonamenti, lei lo trova su internet quando vuole, alle aziende. Non abbiamo rovinato mai nessuno. Se pensa, cioè, che oggi, se pensa che oggi è prassi, e lo so perché ne mando via a urla non so quanti durante il giorno, che ti suonano il campanello fingendo di volere essere dei controllori delle aziende che forniscono energia. Quelle sono cose che biette però lo continuano a fare e nessuno dice nulla. Quella è veramente una truffa ai danni degli anziani, perché vogliono semplicemente, ti chiedono la bolletta per vedere il tuo numero e darti un servizio che tu non richiedi, non hai capito bene cosa sia. Ecco, quella la considero veramente un atteggiamento truffaldino, però si muovono nelle maglie delle leggi, per cui non è così immediato che qualcuno possa contestargli un reato. Beh, adesso hanno tutti vita facile perché hanno depenalizzato tutto, di conseguenza. No, I won't. avverto noi signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Comunque io rifarei tutto, nel bene e nel male. In fondo non ha fatto piangere nessuno, come si suol dire, no? Assolutamente no, anzi, sono stati tutti bene quelli che hanno lavorato con me e non abbiamo fatto veramente danno a nessuno, perché quando lei porta via 25.000 lire alla Ignis, non credo che sia un reato abietto da vergognarsene. Ma non voglio neanche medaglie, per l'amor di Dio. No, diciamo, aveva una sua versione creativa di quella che era un'attività imprenditoriale e il suo marketing era un marketing forse eccessivamente virale, come si direbbe oggi. Esagerava un po' e sul non detto, sul detto in maniera non proprio limpida. Io avevo 30 telefonisti. Tra questi 30 ogni tanto capitava qualcuno che per fare meno fatica diceva sono il dottor tal dei tali dell'ufficio IVA, invece di dire sono Rossi dell'ufficio stampa del sindacato che stampa il giornale. Saltava tutta questa parte e qualcuno... Ma perché erano pagati a provvigione, cioè più contratti facevano? A provvigione, si prendevano il 30% i produttori e il 15% gli esattori che andavano a incassare. E quindi erano, diciamo, stimolati a voler fare più contratti possibile. Sì, c'era qualche pigro che invece di fare 30 telefonate corrette ne faceva 3 pesanti e risolveva il problema. Però, ma io lo sapevo solo dopo. Gliela metto sotto un altro punto di vista. C'era una coda di paglia terribile negli imprenditori, perché basta che uno che chiama e ci sono e ti fanno un abbonamento così. Ma assolutamente. Se avessero tutti avuto la coscienza tranquilla, hanno detto no, non mi interessa, se volete venite a guardare, accomodatevi. Quindi c'era, lei giocava anche sul fatto che, diciamo, i suoi referenti avevano forse qualche scheletro nell'armadio che tutto sommato non conveniva che venisse fuori. Decine di assoluzioni, perché in aula la domanda dell'avvocato, del mio avvocato, si chiama famoso Cillario, era all'imprenditore, ma lei ha fatto l'abbonamento per telefono, perché se ha speso 30.000 senza sapere, senza vedere, cosa pensava di fare, di comprare l'ufficio IVA? La risposta era no, e io venivo assolto sempre. Giustamente sì, ma lei aveva trovato, diciamo, una zona grigia in cui ci si poteva muovere con un po' più di spregiudicatezza, giocando sul fatto che andava a toccare dei punti nevralgici nella cattiva coscienza generale. Ma le do una cifra: nel 75 incassavamo 19 milioni la settimana. Beh, ci credo che ha fatto una bella vita però. Nel 75. In quanti dovevate gestire questo, vi spartivate questo budget? A me comunque rimaneva il 30. Butta via di quei periodi, ma sta scherzando. No, ma poi allora non si pagava niente, non si pagava tasse, IMU, ICI, IVA, niente. Poi erano vecchie lire, diciamo, erano soldi che avevano un bel potere d'acquisto, è chiaro. Assolutamente sì, infatti quando mi hanno arrestato avevo 3 Porsche, le solite cose dei morti di fame che quando fanno i soldi comprano la macchina. Ma tolto le parole di bocca, però è così, che ci faceva con 3 Porsche, scusi, uno c'ha 2 mani e un culo, cioè una per volta, 3 Porsche aveva. Comunque è andata benissimo. E le Porsche che fine hanno fatto adesso? Le Porsche allora, poi quando sono uscito le ho vendute, avevo il motoscafo, l'ho venduto, allora non sequestravano, adesso porterebbero via tutto. E adesso con che gira? Se deve camminare per strada cosa si porta? La bicicletta, cosa c'ha? Non le dico la cifra che avevo in tasca di certificati del tesoro quando mi hanno arrestato, perché non ci crederei. No, me la dica, è così almeno chiudiamo in bellezza. 1 miliardo. 1 miliardo di titoli di Stato? Di lire. E che fine hanno fatto quei soldi? Li hanno sequestrati? Sì, ma poi me li hanno dissequestrati e ho perso 75 milioni. Vabbè, su 1 miliardo che sarà mai 75 milioni? Parlo del 1980, Beh, erano belle cifrette, ci credo che ha vissuto bene. Sì. Vabbè, senta. Ho commesso però un errore, come direbbe il famoso della brillantina Linetti. Non mi sono mai intestato i beni che ho comprato, gli immobili, e li ho intestati a un'altra persona. A una donna? Che si è comportata bene per tanti anni e poi un giorno mi ha detto, caro Alberto... Una donna, io. Dico, immagino. Sì, sì. Lo so, è un punto debole, doveva pure avercelo anche lei. E quindi questa signora, diciamo, è scappata con tutti i suoi dobloni? No, no, non è scappata, ci siamo... Non è scappata assolutamente. Però si è tenuta tutto lei? Poi ho fatto una fesseria io, lei si è sentita offesa e mi ha detto, caro mio, questo è il risarcimento per quello che mi hai fatto. E vabbè, quella è una scusa, chiaramente, da trovare una scusa per scappare col malloppo. Non le posso dire il perché. No, no, a voce glielo direi. Sarà quelle solite cose che le donne soffendono, magari. Però è una persona che io vedo spesso, che conosco, alla quale voglio bene comunque. E pensi che l'altro giorno gli ho telefonato, ciao cara, era il 17, la partita famosa Italia-Germania 4-3, sì. Ecco, ti ricordi? E ho fatto il suo nome, eravamo felici 50 anni fa, abbiamo visto Italia-Germania e lei si è messa a piangere al telefono e ci siamo salutati, malgrado tutto. Io non riesco. Ma adesso immagino che questa donna faccia una vita molto agiata, se è beccata quel bel malloppo, no? Sì. Ah beh, sarà grata. Ora ha degli immobili in centro di Milano, sì, sta molto bene. Ma vive sola, perché non vi rimettete insieme? Sarebbe il momento, no? No, non vive sola, ha una figlia, ma è una storia molto lunga. Vabbè, adesso... Però ce la raccontiamo al prossimo giro, perché secondo me ci sono ancora, diciamo, delle derive interessanti nella sua storia. Per adesso diciamo che il mio viaggio è arrivato alla stazione di arrivo. È stato interessante. Di trovare la donna che aspetta. No, io guardi, è un modo per dire per non trovarla mai, che sarebbe la mia speranza più profonda. Preferisco sempre pensare che qualcuno mi aspetta senza mai incontrarlo. E non vorrei mai trovarmi come si è trovato lei, capito? Alla fine diciamo, di quando uno fa un bilancio. E quindi la saluto, alla prossima, spero di rincontrarla e spero che di poter sapere altri svolgimenti di questa parte della storia, trovo molto interessante. Alla prossima. Le auguro ogni bene, arrivederci. Les histoires balèzes. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.